Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io sono convinto che questa prova durissima che tutti noi stiamo affrontando ci renderà migliori, perché è il momento in cui tutti quanti, io stesso, ma credo ognuno di voi, sta riflettendo anche su quel che ha fatto, sulla propria vita, sul proprio stile di vita, sulla propria scala di valori. Questa è l'occasione per fermarsi a fare delle riflessioni che di solito noi non riusciamo a fare, perché siamo presi da un tran tran frenetico, un via vai frenetico. Questo ha detto Conte, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, oggi durante il discorso nel quale ha illustrato i punti di questo nuovo decreto varato dal Consiglio dei Ministri contro il virus, antivirus, per sanzioni più severe per chi viola le regole già previste nei decreti delle ultime settimane, di cui abbiamo parlato ampiamente qui Effetto Notte. Si è detto convinto quindi che questa durissima prova per tutti, in particolare per alcuni, ci renderà migliori, speriamo che effettivamente sia così. Poi si è detto orgoglioso della reazione della stragrande maggioranza degli italiani. Questo per quanto riguarda l'Italia, però per esempio se guardiamo agli Stati Uniti, che ormai è terzo paese per contagi nel mondo, c'è il presidente americano Trump che ribadisce: il nostro non è un paese fatto per essere chiuso, quindi contiamo nell'arco di 2 settimane di riaprirlo. Intanto i contagi continuano a salire, si moltiplicano e ci sono diversi governatori e sindaci degli Stati Uniti che attaccano Trump e dicono: pensa prima all'economia rispetto invece alle vite delle persone. E poi fra le molte cose di cui parleremo, ci collegheremo poi anche con gli Stati Uniti, parleremo, a parte addentrarci dentro queste nuove regole, ancora una volta col portavoce dell'Associazione Funzionari di Polizia, parleremo anche di un allarme lanciato dall'ospedale Niguarda di Milano, secondo il quale sono cresciute veramente in modo esponenziale, in percentuale, le richieste di consulenze per intossicazioni. A cosa sono dovute queste intossicazioni? All'uso un po' fai da te nelle case, tra le persone, di disinfettanti. Quindi poi cercheremo di fare un po' di chiarezza anche su questo aspetto molto pratico ma molto importante. Che altro vi devo dire? Vi ricordo che durante il giorno c'è il Twitter Roby con la Y, Linetta Bassa Giordano, per alcune anticipazioni e aggiornamenti. C'è poi quello diretta di Effetto Notte, il Twitter, e poi per i vostri commenti sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, sulla quale potete scrivere tranquillamente giorno e notte, oppure SMS e WhatsApp da inviare al 349-238-6666. Lo ricordo, 349-238-6666. Prima degli ospiti, sintesi della giornata. La pandemia di coronavirus: sono oltre 400.000 contagiati nel mondo, secondo l'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University, i morti 17.454, mentre i guariti sono 103.334. L'epidemia in Italia: calano i contagi da coronavirus per il terzo giorno consecutivo, ma torna a salire il numero dei morti, 743 nelle ultime 24 ore, fra cui 400 in Lombardia. A Codogno 0 nuovi contagi. Le misure per contenere il virus: il Consiglio dei Ministri vara sanzioni più severe per chi non rispetta i divieti, multe fino a 3.000 euro. Il Presidente del Consiglio dice, sottolinea, no agli scioperi, non ce la possiamo permettere. Questo a proposito del malumore dei lavoratori di vari settori: domani fabbriche chiuse, così come le altre attività produttive non essenziali. Gualtieri, Ministro dell'Economia, spiega: governo al lavoro per evitare la macelleria sociale. Stati Uniti, mentre rimangono il terzo paese al mondo per contagi, Trump ribadisce: non è un paese fatto per essere chiuso, e diversi governatori lo attaccano dicendo: mette prima l'economia rispetto alla vita delle persone. Olimpiadi di Tokyo 2020, ora è ufficiale, saranno rinviate al 2021. Federica Pellegrini commenta: speriamo che il fisico tenga botta. Clima: l'Italia è diventata più calda di 0,6 gradi negli ultimi 40 anni rispetto al resto del mondo. E partiamo quindi dai numeri mondiali della pandemia di coronavirus. Sono oltre 400.000 i casi di contagio nel mondo, lo segnala l'ultimo aggiornamento sull'andamento della pandemia della Johns Hopkins University. I morti sono invece 17.454, mentre le persone guarite sono 103.334. E per quanto riguarda l'Italia, per il terzo giorno consecutivo cala il numero di nuovi positivi al coronavirus. Oggi sono 3.612, mentre ieri erano 3.780 e domenica 3.000. 1957. Torna invece a salire però il numero delle vittime in un solo giorno. Oggi sono 743, mentre ieri erano 601 e domenica 651. Il dato è stato reso noto, come sempre, dal capo dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Sono complessivamente 54.030 i malati in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 3.612. Lunedì l'incremento era stato di 3.780. Il contributo degli asintomatici alla diffusione dell'epidemia, ha detto il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, il contributo degli asintomatici alla diffusione dell'epidemia è decisamente inferiore a quello dei sintomatici. E il numero dei morti torna appunto a salire anche in Lombardia. Torna a salire il numero delle vittime per coronavirus. In Lombardia sono 402 i nuovi decessi, per un totale di 4.178 dopo due giorni di dati in calo. Il numero dei contagiati sale ancora, con 1.942 casi in più, e arriva a 30.703. I dati di Bergamo sono in linea con ieri, Brescia decelera e Milano città aumenta di 121 casi, meno di ieri. L'assessore al welfare Giulio Gallera. Vuol dire che i milanesi, così come gli altri, stanno riuscendo, comportandosi in maniera molto rigida, molto responsabili, a contenere la diffusione del virus. E vanno avanti i lavori per i due ospedali da campo, quello a Crema con 30 posti letto e gestito da oggi dai medici cubani arrivati domenica scorsa, e a Bergamo l'ospedale da campo allestito dagli alpini, di cui a pochi giorni sarà attivato con l'aiuto dei medici russi e dei medici di emergency. Guido Bertolaso, chiamato pochi giorni fa dalla regione Lombardia come consulente per l'emergenza epidemia, positivo al coronavirus, continuerà finché potrà a occuparsi della realizzazione dell'ospedale Covid alla Fiera di Milano. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a fronte di questi numeri, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto con nuove misure urgenti per contrastare il coronavirus. Sono previste sanzioni amministrative da 400 a 3.000 euro per chi viola la stretta e anche lo stop di 30 giorni delle attività commerciali. Regolamentato il rapporto con le regioni, sarà possibile adottare norme per periodi predeterminati, ciascuna di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio. A proposito di questa data, Conte ha detto: non significa che le misure arriveranno a fine luglio, è solo uno spazio teorico o fiducia che il tutto finisca prima. Benvenga l'aiuto dell'esercito, ha poi detto Conte, ma i cittadini non devono pensare che la tenuta dell'ordine pubblico sia affidata solo a una militarizzazione dei centri abitati. Torneremo tra poco molto ampiamente su questi aspetti. Nel mondo sono oltre 2,6 miliardi le persone costrette a casa a causa delle restrizioni dovute all'epidemia di coronavirus, secondo il conteggio dell'agenzia France Press. E a proposito di solidarietà europea, anche la Baviera, come l'Austria, vuole accogliere pazienti italiani in condizioni critiche a causa del coronavirus. Lo ha annunciato il presidente Markus Söder. Anche noi, ha detto, vogliamo dare un segnale di umanità. Fino ad ora in Germania la Sassonia ha dato la disponibilità ad accogliere 8 pazienti italiani e il Baden-Württemberg 10 persone, sempre dall'Italia. E sono almeno 1.800 a Bergamo i pazienti trentenni con polmonite da Covid-19. Il dato viene riferito dai medici della Federazione Medici di Famiglia della Lombardia. La polmonite da coronavirus evidentemente non colpisce solo in età più avanzata, spiega Paola Pedrini, che abbiamo avuto anche ospite qui a Fettonotte, segretaria della Federazione dei Medici Lombardia. Qui a Bergamo siamo 600 medici di famiglia e ognuno di noi ha in osservazione, ha detto, almeno 3 trentenni malati di polmonite da Covid-19. E poi un altro tema che ricordo anche qui spesso effetto notte, quello delle donne vittime di violenza. È sempre attivo il numero per le emergenze 1522 per le donne maltrattate, 1522. Le prefetture entrano in campo a supporto dei centri antiviolenza e delle case rifugio per risolvere il delicato e grave problema dell'ospitalità di donne vittime di violenza che non possono essere accolte per motivi sanitari in applicazione delle misure emergenziali per il contenimento del contagio da coronavirus. Così il Viminale, che ha diramato una circolare a seguito dei contatti tra le ministre dell'Interno Lamorgese e la ministra per le pari opportunità e la famiglia Bonetti, per invitare i prefetti a verificare sui territori, anche coinvolgendo i comuni e le associazioni, l'esistenza di soluzioni di alloggio ulteriori, anche temporanee rispetto a quelle esistenti. I prefetti, ricorda questa circolare, possono eventualmente anche avvalersi del potere attribuito loro da recente decreto legge 17 marzo 2020 di requisire strutture alberghiere o altri mobili idonei per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare quando queste misure non possano, come nel caso specifico, essere attuate nel domicilio della persona interessata. Appunto, immaginatevi le donne che vivono una situazione di violenza in casa in questo periodo, che vivono la tragedia nella tragedia. E domani stop alle attività produttive non essenziali. I sindacati chiedono maggiori chiusure. Il mondo produttivo si prepara alle chiusure di tutte le attività non essenziali da effettuare entro mercoledì a mezzanotte fino al 3 aprile in base al decreto Conte del 22 marzo. Ma le incertezze sono ancora molte. I sindacati chiedono di ridurre la lista delle attività ammesse, ma è ancora in corso la trattativa in videoconferenza tra il governo e i segretari Landini, Furlan e Barbagallo. Teniamo aperto solo quello che è strettamente indispensabile, esortano i sindacati, e chiedono anche di imporre il rispetto della accordo del 14 marzo sulla sicurezza sul lavoro. Chi non può rispettarlo, dicono, deve chiudere. Confindustria fa notare che già in base al decreto ben il 70% delle attività devono chiudere e che anzi alcune imprese delle filiere essenziali non sono comprese nell'elenco ed è giusto che possano autocertificarsi. Ma anche su questo è corsa contro il tempo. La maggior parte delle domande presentate finora dalle imprese, fa sapere il Ministero dell'Interno, erano incomplete, dunque il Viminale ha diffuso moduli standard e invita le imprese a consultarsi in tempi record con regioni, camere di commercio e associazioni di categoria. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In banca solo per appuntamento, acquisto di mascherine per i dipendenti e altre misure per far rispettare la distanza di almeno un metro, quanto prevede l'accordo tra l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, e i sindacati. Governo italiano e Europa al lavoro per arginare la crisi. Il governo, assicura il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, sta lavorando 24 ore su 24 per attuare prima possibile le misure del decreto Cura Italia. Una risposta inedita e di grande forza per impedire che l'epidemia virale si trasformi in macelleria sociale. Una solidarietà, quella europea, verso i paesi maggiormente colpiti dall'epidemia, che continua a mostrare diversi distinguo. L'intesa sugli interventi economici sembra loro ancora lontana, con l'Eurogruppo che potrebbe delegare al Consiglio europeo di giovedì le decisioni più importanti. Restano infatti le distanze sulla possibilità di accedere al fondo salva stati, con Francia e Italia in testa a chiedere che non ci siano condizioni penalizzanti per i paesi che ne facessero ricorso. Posizione questa bocciata però dall'Olanda e dai paesi del nord. Chiusura totale poi da parte della Germania sui cosiddetti corona bond. È necessaria prudenza quando si presentano presunti nuovi geniali concetti, spiega il ministro dell'economia tedesco Altmaier. Strumento difeso invece dal nostro ministro dell'economia Gualtieri. Uno strumento di debito comune europeo per finanziare in modo adeguato, alle stesse condizioni per tutti i paesi, gli interventi necessari. Ottimista poi Gualtieri sul PIL italiano, che mostrerebbe a fine anno, dice il ministro, una contrazione di qualche punto percentuale, grave ma gestibile e recuperabile. Impegno infine del G7 per sostenere la crescita e l'occupazione. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I mercati, forte rimbalzo per le borse europee che chiudono sui massimi di giornata, aspettando il via libera del Congresso americano e un maxi piano da 2.000 miliardi di dollari per dare sostegno all'economia. Balzo di quasi l'11% a Francoforte, a Piazza Affari il FTSE MIB ha chiuso in progresso dell'8,9%, poco fa chiusura rally di Wall Street, il Dow Jones sale di oltre l'11%, in quello che è l'aumento maggiore dal 1933. E poi lo Standard & Poor's 500 vola del 9,3% in quello che è il balzo maggiore dal 2008. L'emergenza coronavirus monta negli Stati Uniti, dove Trump continua a ribadire che il paese non è fatto per essere chiuso, mentre arrivano gli attacchi di sindaci e governatori che lo accusano di tenere più presente l'economia che non la salute dei cittadini. Ma anche in altri paesi del mondo e in Europa aumentano i contagi. Sono oltre, dicevamo già prima, 400.000 i casi di contagio da coronavirus nel mondo, i morti sono invece oltre 17.000. The impact of COVID-19 on our economy and employment. L'ultimo paese europeo a chiudere quasi tutte le attività è stata l'Irlanda, che segue così d'un giorno la decisione britannica di ridurre all'essenziale le attività sociali, come ha annunciato nel pomeriggio il premier Leo Varadkar. Proprio in Gran Bretagna le dimensioni del contagio stanno assumendo proporzioni preoccupanti, con ben 87 vittime in un solo giorno e un totale di oltre 8.000 casi. La Spagna resta però il paese tristemente più simile al nostro. In un solo giorno ha visto il bilancio delle vittime superare quota 1.500, portando il totale dei decessi a quasi 2.700. Nella penisola iberica si osserva un ritmo di incremento dei casi superiore proporzionalmente persino all'Italia. Oltre 5.400 operatori sanitari contagiati, Madrid resta allo stremo. In Germania i dati evidenziano un calo del 30% dei movimenti delle persone a livello federale dopo le ultime restrizioni. Oltre 30.000 casi nei Länder con quasi 150 vittime. Drammatiche le decisioni prese in India, dove con un decreto draconiano il premier Modi ha messo in quarantena totale, senza neppure la possibilità di uscire di casa, 1.300 milioni di cittadini per ben 3 settimane, questo a fronte di neppure 500 casi di contagio. Allarme rosso a New York, infine, dove i casi hanno superato i 25.000 con un ritmo di raddoppio ogni 3 giorni. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di benzinai. Nel bel mezzo dell'emergenza coronavirus arriva la serrata dei benzinai. Da domani le pompe cominceranno a chiudere progressivamente in tutto il paese. Noi da soli, dicono i benzinai, i sindacati, non siamo più nelle condizioni di assicurare né il necessario livello di sicurezza sanitaria né la sostenibilità economica del servizio. Però è intervenuto oggi il garante degli scioperi, che ha chiesto di revocare subito lo stop dei benzinai, e lo stesso presidente del Consiglio Conte, che ha detto la ministra dei trasporti De Micheli adotterà un'ordinanza che consentirà di regolamentare l'orario di apertura in modo da assicurare il rifornimento di carburante in tutta la penisola, e questo è un modo, dice, per venire incontro ad alcune istanze. Parliamo di clima. L'Italia è diventata più calda di 0,6 gradi negli ultimi 40 anni rispetto al resto del mondo, ed è proprio nel nostro paese che soltanto l'anno scorso ci sono stati oltre 1.600 eventi estremi legati alla crisi climatica. Sono questi alcuni elementi che emergono dal rapporto 10K Trend sul clima. I dati 2019 in anteprima per l'Italia, realizzato da Italy for Climate, l'iniziativa della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Questi i 10 trend sulle performance climatiche dell'Italia. Negli ultimi 40 anni la temperatura media è già aumentata di 1,6 gradi più della media mondiale, che è di circa un grado, e l'ultimo decennio è stato il più caldo di sempre. Nel 2019 in Italia gli eventi estremi connessi alla crisi climatica sono stati oltre 1.600, oltre 10 volte quelli registrati nel 2008, e che solo nel 2019 sono aumentati del 60%. Parliamo di libri. È uscito un ebook da poche ore, è in cima a tutte le classifiche dei libri elettronici. Anche in Italia è stata pubblicata l'attesissima autobiografia di Woody Allen. Si intitola A proposito di niente. Le nostre vite, anche il genio umano, sono nulla, ci sottolinea Woody Allen nella sua monumentale autobiografia. Quella che non doveva uscire, boicottata dall'editore Hachette in seguito alle proteste dei dipendenti, quella poi recuperata da Arcade Publishing, che l'ha pubblicata prima del previsto, forse a causa dei timori per le chiusure imposte dal coronavirus. Anche l'editore italiano, La Nave di Teseo, ha fatto così uscire il libro in formato ebook, in attesa che possa arrivare nelle librerie il 9 aprile, se per allora avranno riaperto. Un libro che racconta la storia di un uomo, di decenni di cinema e di America, e passata la metà delle 400 pagine, parla anche delle sue storie più controverse, delle accuse di molestie, racconta di Mia Farrow. Attenzione, è solo il mio punto di vista, decidete voi, scrive all'inizio di un paragrafo, e quando parla di Sun Yi confessa con candore: spero non sia questo il motivo per cui avete comprato il libro. Un libro davvero da leggere. Poi, appunto, in merito alla storia di Woody Allen, deciderete voi. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Addio ad Albert Uderzo, papà con Goscinny di Asterix. Nel 2019 si sono stati celebrati i 60 anni del fumetto, diventato un successo globale. Per chiudere lo sport, i giochi olimpici di Tokyo sono stati rinviati al 2021. Il Comitato Internazionale Olimpico l'ha ufficializzato oggi, la fiamma olimpica rimarrà in Giappone. Bene, direi la sintesi della giornata qui si completa, così tra poco possiamo cominciare ad approfondire, ad affrontare alcuni temi in primissimo piano con gli ospiti. 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Note. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti che ve lo dico a fare, ormai ricchi, pieni di aggiornamenti, di informazioni, con la sintesi della giornata, con gli approfondimenti degli ospiti e poi i vostri SMS, i WhatsApp oppure i commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Il numero invece per SMS e WhatsApp è sempre 349-238-6666. Io sempre qui presente in radio per raccontarvi le notizie più importanti. chiudere questa giornata con un quadro il più chiaro e esauriente possibile, in modo che un giorno non potrete mai dire io questa non la sapevo a proposito di una notizia importante, e poi per accompagnarvi anche in questo periodo che non è facile per nessuno, e intanto appunto restando informati. Allora, tra pochissimo parleremo delle varie novità che riguardano la politica italiana da un punto di vista delle misure economiche, e poi dal decreto che è stato illustrato in serata da Conte, e poi torneremo proprio sulle regole in dettaglio con il portavoce dei funzionari di polizia. Ma noi siamo pronti in qualsiasi momento, e ci auguriamo prestissimo, per allentare, diciamo, la morsa di queste misure restrittive, per, se del caso, anche superarle, e anzi siamo confidenti e fiduciosi che ben prima di quella scadenza che avevamo ipoteticamente fissato all'inizio si possa davvero tornare alle nostre abitudini di vita, anzi direi più che a quelle ordinarie, a un migliore stile di vita. Conte è convinto, insomma, che tutto questo, a parte la durezza, le tragedie eccetera, ci porterà a un miglioramento, a riflessioni sulla nostra vita e sulle nostre priorità. Questo l'ha detto nel corso del discorso che ha fatto, in cui ha illustrato oggi il decreto con le nuove misure varato dal Consiglio dei Ministri. Su questo saluto la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara. Buonasera a tutti. Allora Barbara, io direi che per quanto riguarda la politica italiana dividerei il tutto in tre ambiti principali. Allora, dicevo, il nuovo decreto varato dal Consiglio dei Ministri, illustrato appunto in serata da Conte, le dichiarazioni del ministro Gualtieri sui provvedimenti economici, in particolare il Cura Italia, e poi molto sinteticamente l'esito che ha avuto ieri questo incontro, questo vertice tra Conte e l'opposizione di centrodestra. Allora, per quanto riguarda quello che ha illustrato Conte di questo nuovo decreto legge, in realtà poi per gli aspetti che relativi più alle regole, alle sanzioni eccetera, ne parleremo dopo con il portavoce dell'Associazione Funzionari di Polizia, che tornerà ospite qui a Effetto Notte. Però con te invece volevo toccare altri aspetti di questo decreto, per esempio il fatto che ha ribadito Conte che c'è la preminenza in queste decisioni dello Stato sulle regioni, ma lascia alle regioni una certa autonomia anche di varare, magari imporre delle misure anche più severe. Sentiamo questo passaggio di Conte. Lasciamo che i presidenti delle regioni o delle province autonome possano adottare l'ambito delle esclusive delle proprie competenze, possono adottare anche provvedimenti, misure restrittive e, se del caso, anche più restrittive, misure più severe, e ovviamente però rimane la funzione di coordinamento, di omogeneità che viene assicurata da tutto il territorio nazionale dai nostri interventi, agli interventi del governo. Ecco Barbara, quindi intanto diciamo che con questo decreto cerca il governo di mettere ordine tra le ormai tante norme anticoronavirus che si sono succedute, no, dalla creazione delle prime zone rosse, e con i vari decreti, anche alcuni ascoltatori cerca di mettere ordine. Sì, cerca di mettere ordine e anche un po' di stabilire le priorità, perché mi sembra anche questo, anche l'ultima dichiarazione che tu facevi sentire. È evidente che però non può esserci, come posso dire, un contrasto non solo tra norme statali e a carattere invece regionale, ma anche politico, che abbiamo visto che in queste settimane più volte, insomma, tra Roma e la Lombardia in particolare, ma anche il Veneto, l'Emilia Romagna, ci sono stati momenti di forte tensione, no? E quindi chiaramente questo decreto dovrebbe in qualche modo servire un po' anche a sanare queste fratture. Le parole di Conte sul fatto che comunque le regioni ovviamente possono continuare a deliberare con le loro ordinanze, pensiamo, non lo so, se il fatto di poter uscire di casa per portare fuori il cane invece di 400-500 metri diventa 200 metri, lì l'ordinanza regionale ha, come dire, a campo libero. Diverso invece se si decide di chiudere delle filiere produttive, delle aziende, perché lì inevitabilmente andrebbe a contrastare con quelle che possono essere tutto l'interesse nazionale, dice Barbara. Sì, quindi Non è semplice. A chi mi chiede in questi giorni, insomma, anche un'opinione sull'operato delle regioni, del governo, io rispondo che siamo in una situazione veramente così straordinaria e mai vissuta prima proprio nella storia, quantomeno nella storia dell'ultimo secolo, cioè parlo di questo attuale, degli ultimi 20 anni, ma anche diciamo del secolo precedente, perché poi la spagnola comunque per noi è molto lontana, all'inizio del Novecento eravamo, che diventa complicatissimo capire in tempi così rapidi, perché il virus ci impone di essere veloci, qual è la risposta da dare. Quindi mi rendo anche conto che la confusione fa un po' parte, come dire, è una dote, un peso, se vuoi inevitabile. Sicuramente. La situazione è complessa, lo vediamo anche quello che sta succedendo negli altri paesi, anche i paesi più grandi, ritenuti più importanti, insomma. Cioè, diciamo che nessuno ha fatto tesoro degli errori degli altri, noi per primi non abbiamo fatto tesoro di quello che era avvenuto in Cina, nel senso che i cinesi a loro volta avevano inizialmente minimizzato e nascosto. Però se vuoi, se si può dire, Barbara, purtroppo, diciamo così, la Cina ci sembrava così lontana da noi, mentre i paesi europei che confinano con noi tutti, insomma, hanno preso sotto gamba e man mano a ruota, no? Diciamo. Ma io penso che ciascuno di noi, no, se si guarda un attimo indietro e pensa a un mese fa, non dico di più, ma un mese fa, e vedeva le immagini di Wuhan, io mi ricordo insomma il senso che avevamo, no, come dire, poverini, cioè, però a distanza, cioè non era una cosa che poteva riguardarci, e improvvisamente in pochissimo tempo, sembra trascorso tanto perché il tempo si dilata soprattutto quando ci sono queste misure restrittive. Barbara, invece, per quanto riguarda, forse tra poco c'è Ilaria Capua sulla 7, se dovesse intervenire magari sentiamo qualche passaggio, vediamo se interviene subito. No, il ministro Speranza, sentiamo cosa dice il ministro della Salute. È emersa questa data del 31 luglio, ma è semplicemente la data che noi abbiamo disposto il 31 di gennaio per lo stato d'emergenza. Ma i provvedimenti, le misure che abbiamo assunto hanno una scadenza molto più limitata, quella del 3 aprile, molto probabilmente verranno discusse dai nostri scienziati nei 3-4 giorni precedenti, è probabile che il grosso di queste misure venga chiaramente confermato, ma l'auspicio è poter avere tempi più brevi, insomma non tutte queste misure sono sostenibili per un periodo così lungo. Beh, certo, questo l'aveva detto, spiegato anche Conte oggi in questo discorso in cui ha illustrato le nuove misure, no? Insomma, erano uscite le solite cose su Facebook in cui c'era chi sosteneva il governo fino al 31 luglio. In realtà un conto è un regime appunto di emergenza, e un conto poi sono le misure che all'interno del regime d'emergenza vengono assunte di volta in volta con provvedimenti di PCM, decreti legge o quello che sia, e che hanno ovviamente una durata prevista da quel provvedimento. Poi può essere prorogato, come stava dicendo Speranza, magari prorogheranno alcune misure ed altre invece no. Questo noi vedremo il 3 aprile, insomma, quello che succede. Si naviga a vista inevitabilmente. Senti, farei sentire invece, per quanto riguarda l'audizione sul decreto Cura Italia oggi del Ministro dell'Economia Gualtieri, questo passaggio. Il provvedimento di cui prospetterò le linee generali e che all'esame del Parlamento costituisce il primo significativo intervento per attenuare l'impatto economico dello shock determinato dall'intensificarsi dell'epidemia di Covid-19 sulla scia degli altri tre primi decreti legge già emanati, e per sostenere e rafforzare la capacità di risposta del nostro sistema sanitario e della protezione civile. E poi ha detto Gualtieri, ci sarà una caduta del PIL, del prodotto interno lordo, di qualche punto, grave però gestibile. In sintesi questo, no? Quello che ha detto oggi Gualtieri, Barbara, sull'impatto economico. Quale sarà la caduta del PIL? Tornando invece a quello che ha detto oggi Gualtieri, mi sembra che abbia proposto una sorta di abbia teso la mano all'opposizione, no? Dicendo, dopo il vertice di ieri anche. Sì, dicendo in sostanza, allora, noi abbiamo questo primo decreto che è stato soprannominato Cura Italia, che mette in moto 25 miliardi di euro, no? Questi 25 miliardi di euro dalle misure messe nel decreto, cioè dalla cassa integrazione, il sostegno per gli autonomi, il sostegno per le famiglie, di fatto i 25 miliardi sono finiti e quindi il governo dice servono altre misure e un altro intervento di scostamento del deficit, perché ricordiamolo sempre anche agli ascoltatori, noi stiamo andando, questi 25 miliardi noi non ce li abbiamo, li dobbiamo sempre chiedere, cioè qualcuno ce li deve prestare attraverso le aste dei nostri titoli pubblici. Adesso andremo nei prossimi giorni, a quello che ha detto oggi Gualtieri, a ulteriori aumento del debito, perché abbiamo bisogno di altri soldi, come del resto stiamo vedendo sta avvenendo in tutto il mondo, cioè che c'è necessità di liquidità per sostenere l'economia, cioè per aiutare le persone intanto a sopravvivere, perché la gente se sta a casa non prende gli stipendi, quindi insomma è evidente che serve un sostegno pubblico. Allora Gualtieri, stavo dicendo, qual è la proposta che sta facendo l'opposizione? Sta dicendo l'opposizione, questo decreto, come dire, il Cura Italia, non ci sono molti margini per modificarlo perché i soldi sono già finiti, ma siccome io so benissimo che servono misure altrettanto importanti, altri miliardi da mettere in gioco, allora io vi dico che nei prossimi giorni, in tempi brevissimi ha detto, chiederò al Parlamento un nuovo scostamento di bilancio, quindi la possibilità di andare ancora di più in deficit, e su quelle risorse troviamo un'intesa sulle misure da adottare. Questo è lo scambio. Dopodiché i capigruppo della maggioranza hanno invitato quelli dell'opposizione domani a un incontro proprio per, come dire, cercare di mettere già a punto quali possano essere eventuali interventi, e vediamo come evolve la situazione, perché è chiaro che un paese che si muove diviso è sempre più fragile, più debole, e questa è la preoccupazione principale. Barbara, del capo dello Stato. C'è un'ascoltatrice che dice: facciamoci un regalo grande per il dopo coronavirus, l'ora solare per tutto l'anno, per la bellezza di un andamento lento oltre che un omaggio dovuto alla natura offesa. Io direi, più che l'ora solare, a me piace l'ora legale, poi su questo magari litigheremo dopo quando potremo festeggiare. Tu cosa vuoi che ci regaliamo, Barbara? Ti viene in mente subito qualcosa? Ci vuoi pensare per la prossima puntata? Mi piacerebbe, guarda, ti rispondo come, perché questa domanda l'ho fatta questa mattina a mia figlia. E che è rimasta a Bologna perché ha detto non vi voglio infettare, una dei essendo ragazzi tu molto che anziana, sono, sì, che sono rimasti nelle loro sedi, nelle loro università e non si sono spostate, e le ho detto ecco, io la prima cosa non vedo l'ora di poterti riabbracciare, e lei mi ha detto mamma, io non vedo l'ora di andarmi a prendere un caffè al bar come facevo tutti i giorni e non faccio più da un mese. Cioè la normalità è vero. Che tutto ci sembra così adesso un miraggio, no? Anche i gesti più normali. Comunque io intanto desidero abbracciarti, cara Barbara Fiammeri, lo faccio almeno con le parole, tu sentilo e ci sentiamo presto. Grazie. Va bene, buonasera a tutti. Ciao Barbara Fiammeri. Ci fermiamo qui, come al solito, per una breve pausa di riflessione, di respiro. Voi continuate con i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il 349-238-6666, che è il numero per messaggi, sms o whatsapp. E poi già cominciano le vostre domande. Buonasera, sono un padre separato con accordo depositato in tribunale con giorni in cui devo stare con mio figlio in un appartamento in locazione fuori dal mio comune di residenza. Posso spostarmi con le nuove restrizioni? Già era stato detto di sì nei giorni scorsi dal portavoce dei funzionari di polizia, ma poi ne parliamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, perché naturalmente siete a casa e state ascoltando la trasmissione antivirus per antonomasia, perché se voi ascoltate Effetto Notte tutte le sere, sapete prima di tutto quello di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, e poi evitate il virus perché man mano lo conoscete, vi informate sempre di più. Qua per fare tutto questo, Roberta Giordano con voi come sempre. I vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure 349-238-6666, il numero per sms o whatsapp. C'è per esempio, c'è Francesco da Milano che dice: ma Roberta, non è palese che l'avvocato del popolo Conte applichi sempre più l'antica sentenza, cita il latino, dice, cioè essere magnanimi con chi si assoggetta ma usare il pugno di ferro con chi alza la cresta? Non mi pare, caro Francesco, perché questo è un momento assolutamente anomalo, assolutamente eccezionale, assolutamente straordinario, nel senso fuori dall'ordinario per noi e per tutto il mondo, quindi purtroppo c'è poco da fare, e lo dico anch'io che sono un animale da esterno, ecco, io soffro molto in casa, sono una molto fisica, e in questo momento però evidentemente se le regole sono queste per contenere il contagio c'è poco da fare, ma di regole parleremo tra pochi istanti. abbiamo introdotto una sanzione, una multa, il pagamento che va da 400 euro a 3.000 euro, secondo le multe proprie che tutti quanti conosciamo quando ci sarà capitato qualche volta di violare le regole del codice della strada. Quindi d'ora in poi alla sanzione attualmente prevista, alla contravvenzione attualmente prevista, si sostituisce questa sanzione pecuniaria, questa multa, ripeto, da 400 a 3.000 euro. L'avete sentito, quindi in sintesi Conte anche in questo passaggio oggi, quando ha illustrato in serata intorno alle 19 qualcosa il nuovo decreto legge che è stato varato dal Consiglio dei Ministri e che prova, dicevamo prima, a mettere un po' ordine tra le ormai tante norme anticoronavirus che sono uscite nelle scorse settimane, che sono state emanate dal Presidente del Consiglio attraverso vari decreti, quindi elencando 28 restrizioni e regole, accorpando quelle adottate appunto con i provvedimenti precedenti, dallo stop agli spostamenti alla possibile chiusura di strade e parchi, cinema, ristoranti, eccetera eccetera. Anche se avete sentito sempre da un passaggio che magari vi faccio risentire, che ha detto c'è il coordinamento che è senza dubbio nelle mani del governo, quindi a livello di Stato centrale, però le regioni possono a loro volta, in alcuni casi, quando ce n'è il motivo, anche applicare delle ordinanze anche più severe. Su questo saluto subito Girolamo Laquaniti, che è portavoce dell'Associazione Funzionari di Polizia. Ben trovato, ben ritornato, Laquaniti. Buonasera, ben trovati a voi e agli ascoltatori. Quindi dicevamo di queste nuove linee guida del governo, in particolare per quanto riguarda le regole, nuove sanzioni più pesanti, ha approvato le multe per punire chi non rispetta i divieti emanati per evitare appunto il contagio da coronavirus. Si parla di sanzioni amministrative che vanno dai 400 ai 3.000 euro. Però ha per esempio sottolineato una cosa Conte, che ci si aspettava ma non c'è in questo nuovo decreto, dice non c'è però alcuna confisca del mezzo, dell'auto, se uno viene fermato e non ha dei validi motivi per essere insomma in giro, dottor Laquaniti. Sì, diciamo che innanzitutto c'è un passaggio che ci trova favorevoli, cioè il passaggio da una sanzione penale, perché prima, anche se si parlava di ammenda, l'ammenda è una sanzione di natura penale, siamo passati a una sanzione amministrativa, e sicuramente aver previsto una sanzione che da un punto di vista pecuniario è più afflittiva ci trova certamente d'accordo. Abbiamo parlato di un'occasione persa, perché siccome il grande problema sono gli spostamenti in auto con mezzi di locomozione, perché sono quelli che tra l'altro portano persone da zone magari con più alto rischio di contagio ad altre zone che ancora hanno rischi più limitati, eravamo convinti e siamo tuttora convinti che fosse opportuno anche intervenire con altre misure, con altre sanzioni, prima fra tutte quella del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi, che tra l'altro è stato oggetto del dibattito. Ecco, da questo punto di vista, come Associazione Funzionari di Polizia, sapendo quello che i nostri uomini vivono su strada, siamo un po' delusi, ma non lo siamo delusi come critica, siamo delusi perché pensiamo che questo non sia uno strumento ancora adeguato a contrastare movimenti e spostamenti non autorizzati. Dottor Laquaniti, siccome di nuovo ci sono tante domande, perché ogni sera milioni e milioni di nuovi ascoltatori naturalmente ascoltano Effetto Notte, per esempio torna un ascoltatore sull'aspetto dei genitori separati che hanno dei figli, no, a cui dedicarsi diversi giorni alla settimana, dice per esempio questo ascoltatore: sono un padre separato, lei aveva dato già la risposta ai giorni scorsi ma glielo ribadiamo, dice sono un padre separato con un accordo depositato in tribunale con giorni in cui devo stare con mio figlio in un appartamento in locazione fuori dal mio comune di residenza. Posso spostarmi con le nuove restrizioni? Guardi, io ho controllato pochi minuti fa, perché continuano ad arrivarmi queste telefonate, così compare ancora sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Posso che il diritto a esercitare la potestà genitoriale è un diritto importante, un diritto fondamentale, un diritto che comunque deve essere garantito, a meno che ovviamente il soggetto non si trovi in situazioni particolari, perché, lo dico a scanso di equivoci, nel momento in cui il soggetto si dovesse trovare per qualsiasi motivo in quarantena fiduciaria a scopo precauzionale, o peggio ancora se dovesse risultare positivo, in quel caso ogni tipo di spostamento, ogni tipo di contatto con gli altri è comunque tassativamente vietato. Chiaro. Invece, dottor Laquaniti, per esempio, chiede un'ascoltatrice, Laura, io ho dei supermercati vicini, però ce n'è uno che appena fuori dal mio comune a 50 km dove ci sono delle cose che mi interessano maggiormente. Posso andare lì a fare la spesa? Qui andiamo da un punto di vista interpretativo, perché ci sono arrivati molti quesiti e soprattutto nei comuni più piccoli alcuni esercizi commerciali non hanno prodotti adatti a chi segue diete particolari, perché magari è intollerante, perché magari soffre di celiachia, faccio un esempio. In quel caso si ritiene legittimo il fatto che ci si possa approvvigionare di quei beni che sono necessari per la nostra salute, perché tutto quello che rientra nell'ambito di motivi seri, importanti di salute ha ancora una sua tutela e prevede deroghe alle disposizioni. Questo però, dottor Laquaniti, detto così anche simpaticamente, può diventare un po', diciamo, un pretesto un po' per chiunque, no? Dire io lì trovo questo prodotto che a me serve, cioè, bisogna avere qualcosa che certifichi una prescrizione medica, qualcosa in mano, oppure no? Beh, è chiaro che la prescrizione medica e che un certificato facilita, poi è chiaro che chi agisce in determinati comuni, qui parliamo di quei comuni proprio più piccoli che magari hanno esercizi commerciali che non possono avere una serie di prodotti. È chiaro che è una scusa che non può essere utilizzata chi appartiene a comuni di media grandezza dove è evidente che si tratterebbe di una scusa. Ci sono comuni, perché poi se no troviamo anche domande come posso dire particolarmente preoccupate, perché l'Italia è fatta anche di comuni molto piccoli, alcuni dei quali non hanno una farmacia o non hanno una farmacia sempre particolarmente aperta. È chiaro che in quel caso, nel momento in cui io mi devo spostare per un genere necessario che non si trova nell'ambito del mio comune, vuoi perché manchi, vuoi perché momentaneamente chiuso, in questo caso mi posso spostare. Dottor Laquaniti invece torna a chiedere un ascoltatore, tanti fanno questa domanda, vorrei sapere, dice, se posso utilizzare la bici per recarmi al lavoro. Tendenzialmente sì, ci sono stati alcuni comuni, ci sono alcune ordinanze sindacali che hanno limitato lo spostamento della bici anche in questo caso, perché uno dei problemi grossi è questo, lo ricordava prima in trasmissione, ci sono delle regole che valgono su tutto il territorio nazionale, ci sono particolari restrizioni che hanno valenza regionale e poi ci sono un'ulteriore serie di disposizioni che vengono fatte direttamente dai sindaci, che comunque sono autorità locali dove non ci sono commissariati di pubblica sicurezza, e quindi in alcuni comuni addirittura ci si è trovati ad avere questo tipo di limitazione. In linea di massima lo spostamento verso il luogo di lavoro, a seconda di come ci si trova, può avvenire sia a piedi, sia in bici, sia su un veicolo a motore. Faccio l'esempio di chi magari si trova anche in zone dove l'uso della macchina è particolarmente sconveniente, perché ci troviamo in ambito di centro storico. Però ripeto, attenzione al fatto che in ambito comunale ci possono essere delle restrizioni particolari. Quindi, come per esempio, dottor Laquaniti, e poi dopo andiamo su questo esempio che sto per fare, però per quanto riguarda la moto, io sconsiglierei di usarla, anch'io la mia moto, e con il caldo ero lì che aspettavo tutto l'inverno e tirarla fuori, ci si può fare male più facilmente, quindi poi si può finire all'ospedale, che sono già congestionati con questa emergenza, quindi forse, dico, se si può evitare, guarda, se si ha la macchina, no, è meglio, dottor Laquaniti. Parla con un ex motociclista che è stato costretto a prendere il casco al chiodo dalla moglie, che giustamente ha le stesse sue preoccupazioni. Io posso dirle che comunque, ecco, ricordiamo anche questo, che se ci sono persone che sono abituate a condividere il mezzo e non appartengono allo stesso nucleo familiare, tra l'altro andare in due, su quei mezzi a due ruote che lo consentono, è adesso vietato, perché non c'è il rispetto della distanza necessaria. Ripeto, se non si appartiene allo stesso nucleo familiare. Bene. Dottor Laquaniti, ultimissima domanda. Ritornano molti ascoltatori e ascoltatrici sempre su questa cosa. Tra l'altro c'è stato un braccio di ferro tra sindaci e prefetto dell'Aquila, perché sindaci abruzzesi continuano a dire niente corsetta sotto casa, mentre invece viene detto dovete rispettare il decreto governativo. Però mi pare che Conte abbia già chiarito che laddove regioni e amministratori locali decidano di applicare delle ordinanze più severe, ne hanno diritto se, insomma, ci sono le condizioni per farlo, no, Laquaniti? sempre con questa libertà, diciamo, di muoversi un po'. Allora, io come posso dire, vorrei rimanere, è vero che appartengo a un'associazione, però vorrei rimanere anche all'interno di quello che è il mio ambito, che è quello del poliziotto. Io non voglio fare il legislatore, chi deve, come posso dire, scegliere quale misure sono più opportune o meno opportune. Quello che credo fondamentale, che mi sento di poter chiedere a gran voce, è che serve disperatamente una uniformità nell'ambito di quello che è consentito e di quello che è vietato. Sì, sarebbe, sarebbe non utile. Non spetta a me dire se e quanto è importante un minimo di attività motoria. Certo, ci siamo trovati di fronte, soprattutto nella prima fase emergenziale, ad alcune situazioni veramente gradevoli, uso assolutamente un eufemismo, cioè di gente che di chi se ne approfittava, picnic, per fare la corsetta nell'area verde più bella. Benissimo. Credo che in questo momento, oltre alla responsabilità, occorra mantenere nervi saldi e il buon senso che ci deve accompagnare sempre. Grazie dottor Girolamo Laquaniti, grazie ancora, a presto. Grazie a lei, grazie all'ascoltatore, buon lavoro. Buona serata. Di abilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi. Sapete che un elemento fondamentale da che è scoppiata questa pandemia di coronavirus, prima di tutto che riguarda gli ambienti ospedalieri, ma anche tutti gli altri contesti, anche i nostri ambiti domestici, è quella la necessità di sanificare, di disinfettare. Ovviamente in ambito sanitario sanno benissimo cosa fare, ma a casa come ci si deve comportare? Ve lo dico perché c'è un allarme lanciato dal centro antiveleni dell'ospedale Niguarda di Milano, secondo il quale dall'inizio dell'emergenza Covid-19 le richieste di consulenza medica per intossicazione da disinfettanti è aumentata circa del 65% e fino al 135% nei bambini sotto i 5 anni. Per questo coinvolgo Marcello Ferruzzi, che è dirigente del centro antiveleni appunto del Niguarda. Dottor Ferruzzi, buonasera. Buonasera. Quindi insomma si assiste anche a questo fenomeno, perché presi un po' dalla psicosi di disinfettare, che è anche giusto, insomma dobbiamo disinfettare tante cose in casa, pulire eccetera, oltre a lavarci le mani, però bisogna farlo anche con cognizione di causa. Certo, bisogna avere attenzione e soprattutto il nostro allarme è rivolto a quelle situazioni in cui questi prodotti vengono preparati, che sono anche di difficile reperimento talora nelle farmacie, vengono preparati artigianalmente a casa e poi travasati in contenitori anonimi o con le precedenti etichette, quindi di acqua minerale o altro, per cui questo espone chiaramente al rischio che possano essere ingeriti. In più bisogna tenere conto che si tratta comunque di preparati chimici che non vanno lasciati realmente alla portata dei bambini, che chiaramente possono essere esposti all'ingestione. Quindi insomma stare attenti, non fare i piccoli chimici industriosi, insomma, no? Sì, questo può anche essere utile, queste preparazioni possono anche essere utili. L'importante è poi tenere conto che a questo punto è un preparato chimico e come tale va trattato e considerato. Quindi questo in termini di prevenzione, ed evitare anche poi comportamenti a volte veramente incongrui, come disinfettare mascherine magari con candeggina, ammoniaca e poi reindossarle. Questi espongono davvero in inalazione a problemi anche relativamente abbastanza seri. Dottor Ferruzzi, non è proprio il suo compito, perché lei appunto è dirigente del centro antiveleni, quindi dice evitare sostanze chimiche pericolose, tenerle lontana dai bambini, però se lei dovesse dire che cosa può bastare, in realtà forse più semplicemente, anche è vero che è più difficile approvvigionarsi in questo periodo, lo sappiamo, no? Anche con la speculazione, però anche dell'alcol normale, denaturato, può bastare? Sì, insomma, questi prodotti sono efficaci, quindi anche se poi mi colgo l'occasione per dire quello che tutti dicono, ma che è realmente il vero problema. In questi casi la vera prevenzione, la vera terapia è il distanziamento delle persone. Questo è un virus che si trasmette per via aerea, quindi vanno bene le disinfezioni con la prudenza. Addirittura sarebbe paradossale esporre dei bambini che fortunatamente sono risparmiati o sembrano risparmiati da questa epidemia a problemi legati a comportamenti incongrui. Ultima notazione, mi permetta, invece, oltre quando l'evento si fosse poi sfortunatamente verificato, l'importante è non correre, non precipitarsi in pronto soccorso, non precipitarsi dal medico di famiglia o dal pediatra, chiamate un centro antiveleni, Molto spesso si tratta di situazioni non gravi che possono essere gestite a domicilio. In questo momento è importante cercare per quanto possibile di evitare gli accessi, sia per non caricare ulteriormente i pronto soccorsi e per non esporre nonni o bambini o genitori ad ambienti che sono chiaramente più a rischio anche dal punto di vista della contaminazione della nostra casa. Grazie dottor Marcello Ferruzzi del Diguarda di Milano. Buon lavoro. Our country wasn't built to be shut down. This is not a country that was built for this. It was not built to be shut down. It was not built to be shut down, dice Trump a proposito degli Stati Uniti. Non sono un paese fatto per essere chiuso, vero Riccardo Barlam? Nonostante però gli Stati Uniti ormai vedano crescere in modo esponenziale i contagi, no? In particolare New York è diventata un po' la capitale dei contagi del coronavirus. Sì, buonasera a tutti. Ciao Roberta, io oggi ho fatto un giro, diciamo per lavoro, in bicicletta, girato Manhattan, ho fatto 15 km in bici per Manhattan per capire dopo due giorni di isolamento com'è la situazione in questa città. È un po' la situazione come una domenica mattina, ecco, pensate a una domenica mattina, ci sono persone che girano ma molto meno di quello che si può immaginare. Una città come New York è una città, come si dice, che non si spegne mai, e in realtà in questi giorni New York è un po' diversa da come uno la può immaginare. E sono stato anche a Times Square, dove le persone fanno, che è uno dei posti più visitati al mondo, 40 milioni di turisti all'anno, e oggi ho visto delle cose anche carine. C'era una signora di origine cinese americana con uno studente italiano che gli chiedeva informazione, lei gli ha dato una mascherina, gli ha detto stay safe, io gli ho chiesto di fare una foto, a un certo punto ha detto sì, facciamo una foto ma a distanza di sicurezza, e poi i turisti che fanno i selfie con la mascherina. Però Riccardo, è vero che per esempio c'è il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, che ha accusato Trump di pensare più all'economia che alla salute delle persone, così come anche la sindaca della capitale federale, Washington, lei ha detto la stessa cosa? È un po' un problema dei governatori che si trovano a affrontare l'emergenza, e Trump che parla di primati che sono solo nella sua testa. Lui ha consegnato 400 apparati per respiratori, ventilatori qui a New York, e il governatore ne chiede diverse di 30.000, quindi stanno per sistemare un ospedale da campo nel quartiere fieristico a Midtown, al Jervis Center, e quindi il governatore è quello che ha in mano, come dire, il polso concreto della situazione. Trump fa le conferenze stampa ogni giorno e oggi ha detto una cosa veramente irragionevole, ha detto che lui spera vuole che a Pasqua le chiese siano tutte piene. Certo, tra 10-12 giorni praticamente, no? Esatto, il Papa dice la messa in streaming, non si espone, e Trump, che peraltro non è famoso per la sua fede cristiana, insomma, ma per altri motivi, vuole le chiese piene a Pasqua, che è una cosa un po' insomma, non posso usare i termini che mi vengono, ma poco prudente. Però diciamo, Riccardo, così, so che anche in contrasto con Anthony Fauci, no, scienziata italo-americano, che continua a dire, insomma, a mettere Trump sull'avviso di questa è una pandemia estremamente pericolosa, di vedere che cosa è successo negli altri paesi, però sembra che non sia molto. Sì, purtroppo ci sono due storie in questo paese, una è quella che racconta lui e una è quella che è la realtà. Io oggi ho visto per esempio la polizia di New York che sta presidiando le strade e senza mascherina, chi poteva usa uno scaldacollo e se lo tira su, ma insomma non ci sono le mascherine, quindi la storia è così, è come in Italia un po' di tempo fa, è totalmente impreparato questo paese. Però almeno in Italia diciamo che non c'era un presidente che ha continuato a dire per tanto tempo, quando vedeva morti e morti e morti negli altri paesi, in particolare in Europa e non solo, che era un complotto e che tutto va bene, che apriamo le chiese e festeggiamo la Pasqua, insomma, no? Va bene, caro Riccardo Barlam, buona fortuna, un abbraccio e abbi cura di te. A voi. Ciao Riccardo. Ciao. Sentiamo le 22.